Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È solo una strana misteriosa coincidenza, eppure ha un sapore inquietante, il retrogusto amaro dell'insoluto. È la maledizione del J-27, che ha colpito grandi del rock morti proprio all'età di 27 anni, tutti accomunati dall'avere un nome che cominciava con la lettera J. Successi ed eccessi, vite divorate con la bulimia dolorosa di chi forse ha la sensazione in qualsiasi momento che tutto stia per finire. È solo una strana misteriosa coincidenza. O forse no. Quella di Jimi Hendrix è una storia tanto breve quanto incendiaria. La sua è stata un'esistenza travolgente, passata circondato dalla folla, ma senza mai potersi fidare di nessuno. Solo con la sua amica Katie Etchingham, con cui aveva condiviso per un periodo un appartamento bohemien a Mayfair, cuore di Londra, aveva potuto essere davvero se stesso. Senza i suoi abiti sgargianti, fatti cucire apposta per stupire, senza quella chitarra che gli aveva dato il successo e il dolore. Aveva inventato una musica che non esisteva, era andato contro il sistema, distorcendo l'inno americano, aveva dato voce a tutti i giovani che alla fine degli anni 60 si stavano ribellando a una società a cui non sentivano di appartenere. E poi, una sera, era ritornato a Londra, che l'aveva sempre accolto a braccia aperte. È la sera del 18 settembre 1970 e in una stanza del Samarkand Hotel muore, soffocato dal suo stesso vomito. Mentre la polizia sta ancora spostando il cadavere, cominciano le prime teorie complottiste. Con la sua morte svaniva il sogno dell'acquario, l'esperienza Woodstock diventava leggenda e l'approccio alla chitarra elettrica non sarebbe mai stato più lo stesso. Era il 18 settembre 1970 quando gli infermieri del servizio ambulanze 999 trovarono Jimi Hendrix riverso sul letto di un hotel londinese. Infarto per overdose da cocktail di barbiturici e vino rosso, scrisse il medico legale. Eppure quel referto non convinse i fan, certi di un mistero più grande. Oggi a sostenere che Hendrix fu ammazzato è il suo fonico James Wright, in un libro di memorie in cui si afferma che l'assassino fu il suo manager Michael Jeffrey, beneficiario di una polizza vita da 2 milioni di dollari. Pare che Jimmy volesse scindere il contratto. Se lo avesse fatto sarei finito, confidò lo stesso Jeffrey a Wright davanti a una bottiglia di whisky. L'uomo morì ricco sfondato 2 anni dopo a causa di un incidente aereo. Non passa neanche un mese dalla morte di Jimi Hendrix. Il 4 ottobre del 1970 la vita di Janis Joplin, anche lei 27 anni, anche lei una, anzi due lettere J nel suo nome, finisce nella disperazione. Eccessiva, provocatoria, scomoda, arrabbiata nel modo di cantare e in una quotidianità in cui non si trova a suo agio. Ma anche una personalità fragile, sensibile a tal punto da non sopportare il peso dell'esistenza. La trovano con la testa assegnata, come se incapace di controllarsi, avesse sbattuto violentemente contro qualcosa. Il referto parla chiaro. Overdose di eroina. Nessuno si stupisce, tutti sanno della droga. Eppure fan e non solo non riescono a darsi pace. Insistono sul pressapochismo delle perizie, sul fatto che gli orari non coincidano. Incominciano a tirar fuori l'idea che forse non sia stato solo un incidente. Come in un altro caso, quello del poeta dei Doors, Jim Morrison. Jim Morrison. Ci sono diversi tipi di libertà e ci sono parecchi equivoci in proposito. Il genere più importante di libertà è di essere ciò che si è davvero. Si baratta la propria libertà per un ruolo, si barattano i propri sensi per un atto, si svende la propria capacità di sentire e in cambio si indossa una maschera. Si può privare un uomo della sua libertà politica e non lo si ferirà finché non lo si priverà della sua libertà di sentire. Questo può distruggerlo. This is the end. Bere è un modo di rendere sopportabile la vita in una situazione di sovraffollamento ed è anche una conseguenza della noia. La gente beve perché si annoia. Amo bere. A volte stimola la conversazione. Le persone si sciolgono. È un po' come il gioco d'azzardo. Esci di casa per passare la serata a bere e non sai dove ti troverai il giorno dopo. Potrebbe andarti bene o finire in un disastro. È come un lancio di dadi. Qualche volta le parole fanno più male di un pugno nello stomaco. In questo Jim Morrison è stato un maestro. Non era una posa il suo essere un provocatore, era la sua natura. Per essere libero, pensava, bisogna andare contro tutto e tutti, se necessario, ma mai contro se stessi. Anche lui, come Jimmy e Janice, ha quella maledetta iniziale nel nome. E a 27 anni, come se per loro esistesse un timing divino, muore. È il 3 luglio del 1971 e da tempo ormai si sta autodistruggendo con alcol e droga. È a Parigi, nella casa che ha appena preso con la sua fidanzata, Pamela Corson, un grande spazio situato in un palazzo del XIX secolo al numero 17 di Rue de Beautreuil, nel Marais. Ha in mente di ricominciare. Basta col bere, basta anche con la musica, solo poesia d'ora in poi. E invece Pamela rientra all'alba e lo trova nella vasca da bagno, un corpo senza vita. Bill Siddons, l'agente dei Doors, prende il primo aereo da Los Angeles, ma non può vedere il cadavere. Non lo vede nessuno, tranne gli addetti al pronto soccorso e il dottor Max Vasil, che non ha mai rilasciato interviste eccetto che per dire che Morrison è morto per cause naturali e più precisamente per infarto. Nessuna autopsia, una leggenda che si alimenta ormai da 40 anni. Jim Morrison sarebbe ancora vivo, forse in Africa, a rincorrere il mito di Rimbaud, che aveva fatto altrettanto, o da qualche parte nel mondo. Mito o realtà? Di certo è stato l'incontro più importante della sua vita a renderlo davvero immortale. Le nostre canzoni più interessanti si sono sviluppate col tempo, suonandole ogni sera nei locali. Cominciavamo con una canzone abbastanza semplice e poi la musica diventava una specie di fiume ipnotico di suoni che mi rendeva libero, libero di diventare qualsiasi cosa mi passasse per la testa in quel momento. Mi piacciono le canzoni, ma la parte dello spettacolo che mi piace di più è quando posso scegliere delle vibrazioni dalla musica e dal pubblico e seguirle ovunque vadano. È l'8 dicembre del 1943, Melbourne, Florida, non lontano da Cape Canaveral, quando Clara Clark, figlia di un avvocato del Wisconsin, dà alla luce il piccolo James Douglas Morrison. Suo marito, George Stephen Morrison, è un ufficiale della Marina americana ed è appena tornato da una missione di posature mine nel Pacifico. Dalla guerra George va e viene. Dopo la nascita di Jim, riparte subito e la famiglia è sempre costretta a seguirlo nei suoi spostamenti in giro per l'America. Come ufficiale della Marina dovevo vivere un periodo a terra e un periodo in mare. Per la metà del tempo non c'ero. Ho cercato di farlo sentire il capo famiglia e lui cercava come poteva di prendersi cura di sua madre in mia assenza. Ha visitato tutte le navi in cui prestavo servizio. Sebbene avesse ammirazione per la Marina e per il mio lavoro, era chiaro che non gli interessava seguire la mia professione. Il clima di instabilità e il continuo cambio di scuola e di amici non favoriscono il carattere ombroso di Jim, che si chiude sempre più nel suo guscio, passando molto tempo da solo. Jim era un ragazzo molto intelligente, gli piaceva scrivere e disegnare. Ero certo che avrebbe avuto successo, perché era creativo e scriveva bene. Un giorno, un episodio cambia la vita di Jim per sempre. Mentre sta viaggiando in macchina con i genitori e i nonni nel tratto di strada di circa 60 miglia tra Santa Fe e Albuquerque, intravede un incidente. Dice a suo padre di fermarsi. Per la brusca frenata qualcuno a bordo perde l'equilibrio. Ha soltanto 4 o 5 anni e vede dal finestrino un camion di indiani ribaltato, con molti pelle rossa gravemente feriti stesi a terra. L'incidente lo ossessiona per anni e anche da adulto Jim dirà sempre di sentirsi posseduto dallo spirito di un antico uomo della medicina indiana, uno sciamano. Quella fu la prima volta in cui ho sperimentato la paura, l'anima dei fantasmi di quegli indiani morti. Forse uno o due di loro che erano proprio lì intorno folleggiando e mi arrivavano nell'anima, io ero lì come una spugna, pronto a stare fermo e ad assorbirli. Non è una storia di fantasmi. È qualcosa che per me ha un significato profondo. A scuola Jim ha un andamento altalenante, quoziente intellettivo fuori dal comune, ben 149, prende voti eccellenti e poi improvvisamente sorprende in negativo. È coltissimo, gli insegnanti restano a bocca aperta di fronte alla sua erudizione raggiunta da autodidatta, libro dopo libro, come ricorda la sua sorella Annie. Era un lettore avido, leggeva di tutto e prendeva continuamente appunti. Leggeva i classici, li prendeva dalla nonna e riusciva a scrivere una storia intera da una parola appena imparata. Aveva un'incredibile proprietà di linguaggio. Una volta uscì dall'aula dicendo all'insegnante che doveva farsi togliere un tumore al cervello. In realtà voleva leggere. Quando si è diplomato ha chiesto in regalo tutte le opere di Nietzsche e non un'automobile come i suoi coetanei. A 15 anni Jim Morrison è già un ribelle. Legge freneticamente, accumula volumi e preferisce marinare la scuola per frequentare i locali beat di San Francisco, dove si è trasferito con la famiglia. Il poeta Lawrence Ferlinghetti ha aperto la libreria City Lights Books, che pubblica i più importanti poeti dissidenti europei e americani. È qui che Jim passa moltissime ore, affascinato dal mito del vagabondaggio senza regole. Stavo cercando il personaggio principale della mia vita, andando avanti a caso, fermandomi qui per un assenzio, là per un caffè, seguendo i diurni fantasmi di me stesso, attraverso il passaggio continuo, la morte e la resurrezione, in un vocale ahimè. L'umore di Jim diventa cupo, il suo carattere più aggressivo. Comincia a fregarsene dell'apparenza e fa di tutto, a partire dal look trasandato, per non sembrare un bravo ragazzo. Dentro di lui comincia a farsi strada un tormento esistenziale destinato a non lasciarlo mai. Non penso che lo sciamano, per quel che ho letto, sia molto interessato a definire il suo ruolo nella società. Interessa di più seguire le sue fantasie. Maggio 1961. L'ufficiale George Morrison non vede l'ora di vedere suo figlio sul palco montato nel giardino del liceo, dove tutti gli studenti dell'ultimo anno sono attesi per la cerimonia di consegna del diploma. Ma Jim, provocatorio e sempre più arrabbiato nei confronti della società e di una famiglia che a suo dire non gli ha mai dato amore, non si presenta, mandando George su tutte le furie. Urla, litigi, separazioni. Il futuro poeta del rock sbatte la porta e se ne va, accentuando i comportamenti sregolati degli ultimi tempi. A Tallahassee, Florida, durante una partita di football, viene arrestato per ubriachezza e disturbo della quiete pubblica. È bellissimo, sfrontato, circondato da ragazze attratte come da copione dal mito del maledetto, ma anche di questo sembra non curarsi troppo. Ha iniziato a tenere un diario dove appunta pensieri ed emozioni che, anche se ancora non può saperlo, sono destinati a finire nei testi delle prime canzoni dei Doors. La poesia, letta e scritta, lo fa star meglio. È l'unico sollievo da una vita che gli sembra sempre più difficile, senza gioie, pura sopravvivenza. Il suo insegnante di letteratura ha rilasciato al biografo Jerry Hopkins una dichiarazione che racconta molto di Jim. Jim leggeva quanto e forse più di qualunque altro studente della sua classe. Ma tutto era così strambo che ho visto un altro degli insegnanti andare alla biblioteca del Congresso per verificare se i libri che Jim dichiarava di leggere esistessero davvero. Io sospettai che se li inventasse, visto che erano libri inglesi di demonologia del XVI e XVII secolo. Io non li avevo mai sentiti nominare, ma esistevano, e dalle note che scriveva lui penso che li abbia letti. E la biblioteca del Congresso era l'unico posto dove potevano essere. Jim Morrison sente che il suo destino è diventare un artista. In quale forma ancora non l'ha capito, ma prova l'urgenza di raccontare di chi è diverso da chiunque altro. Si appassiona presto alla pittura e al blues. Di notte, quando vive con i suoi genitori, aspetta che tutti dormano e poi, al buio, sgattaiola fuori dalla sua stanza per andare di nascosto nelle bettole vicino a Fort Belvoir. Per un periodo ascolta solo il blues, arrivando a dichiarare di detestare il rock. Idolatra Blake, Rimbaud, Kerouac, Baudelaire. Tutti grandi poeti, tutti ribelli. Tutti uomini voraci di libertà, proprio come lui, che sua sorella cerca di proteggere. Ero certa che sarebbe stato un beatnik, povero per tutta la vita. Ero molto preoccupata per lui, temevo che nessuno avrebbe scoperto il suo talento, perché lui non sarebbe mai sceso a compromessi. Sapevo che avrebbe fatto qualcosa di straordinario. L'Università della California di Los Angeles, da tutti conosciuta semplicemente come UCLA, ha un campus enorme e percorsi accademici annoverati tra i migliori al mondo. Hanno studiato qui, oltre a molti letterati e scienziati, importanti personalità del mondo della musica e del cinema. Anthony Kiedis, il frontman dei Red Hot Chili Peppers, il produttore Darren Star, il regista Francis Ford Coppola, solo per citarne alcuni. Jim Morrison, quando si iscrive al corso di cinematografia nel 1964, ha 21 anni. I suoi genitori, suo padre in testa, non hanno fatto mistero di essere contrari, innanzitutto per la fama libertina della UCLA, che a loro dire non avrebbe fatto altro che assecondare le tendenze anarchiche di Jim. In secondo luogo perché Los Angeles, selvaggia, tentatrice, l'avrebbe trascinato in un vortice di sesso e droga. Ma non c'è nulla che possano fare se non accettare la decisione di Jim, senza però aiutarlo anche in minima parte con i soldi. Lui non fa una piega e usa quelli dell'assicurazione che gli hanno fatto quando era un bambino. È un piccolo gruzzoletto, ma quanto basta per cercarsi un appartamento nei dintorni del campus. È lo strappo definitivo con la famiglia, così brutale da spingerlo di tanto in tanto a raccontare in giro di essere orfano. Comincia così la vera vita bohemien di Jim Morrison. Una casa piccola, dalle finiture lasciate a metà, pochi mobili recuperati per strada e nei negozietti dell'usato. Nessun orario, nessuna regola, nessuno a cui rendere conto. Finalmente, dopo un'infanzia e un'adolescenza passate nella solitudine di chi è costretto a ripetuti spostamenti, incontra persone diverse ogni sera e riesce a farsi degli amici. Le lezioni lo appassionano e passa ore in biblioteca. I suoi compagni di avventure sono poeti, scrittori, artisti, musicisti. Frequentano bettole e locali malfamati, bevono fino a diventare quasi alcolizzati, fumano, scoprono l'LSD, la droga psichedelica che promette viaggi mentali in mondi paralleli. Mangia pochissimo e diventa magro come un chiodo, ma il suo volto è perfettamente scolpito. I suoi occhi magnetici, i suoi capelli ricci cadono sulle spalle dandogli quel fascino che le donne subiscono e gli uomini gli invidiano. Il suo destino è dietro l'angolo, proprio lì, a due passi da lui. Il volo della mente, incessante, instancabile, senza meta e senza confini, senza vertigini, è maestoso come un'aquila eterna. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni 60 e un giovane Jim Morrison sta frequentando i corsi di cinema dell'Università della California. È bellissimo, tormentato. Le sue espressioni raccontano il fascino di un passato di pensieri ed emozioni. Ha trascorso gli anni della sua infanzia a spostarsi con la sua famiglia da una parte all'altra dell'America per seguire il lavoro di suo padre, ufficiale della Marina. Adolescente ribelle, ha cominciato a divorare libri e a sorprendere gli insegnanti per la sua cultura. Eppure il bisogno di contrastare l'autorità l'ha reso un nemico della scuola, un oppositore al sistema, un poeta controcorrente che ha scelto di rompere ogni contatto con la sua famiglia, rappresentante, a suo dire, del perfetto esempio dell'ipocrisia borghese. Si è trovato un appartamento nei pressi del campus e ha iniziato a condurre uno stile di vita bohemien con l'inclinazione all'autodistruzione. Droga, alcol, locali malfamati, senza mai per questo smettere di scrivere. Vorrei scrivere una canzone che sia pura espressione di gioia, una specie di cerimonia che renda omaggio alla vita, che parli dell'arrivo della primavera o del sorgere del sole, che esprima una gioia sfrenata allo stato puro. Tutto questo io non l'ho ancora fatto. Un giorno Jim Morrison incontra nei corridoi dell'università un ragazzo. Ha 4 anni più di lui, è alto, magro, biondo, con gli occhi azzurri, il suo opposto fisicamente. Iniziano a parlare e scoprono di avere molte affinità e un passato profondamente diverso. È il futuro tastierista dei Doors. Nel destino di Jim Morrison c'è scritto il nome Ray Manzarek. Ray Manzarek. Ray. 3 lettere per sintetizzare un nome lungo, Raymond Daniel. La sua vita, generata da una famiglia di origine polacca, comincia il 12 febbraio del 1939 a Chicago, il cuore pulsante del jazz e del blues. Locali bui, fumosi, musicisti neri arrivati da lontano con i loro strumenti, il fascino di un periodo trasgressivo come il proibizionismo appena passato, fatto di contrabbando di alcol, mafia e rapine. È ancora tutto nell'aria, lo si respira e lo si vive attraverso i racconti di chi c'era. Ray però, almeno all'inizio, non è interessato alla musica. I suoi genitori cercano di convincerlo, lo costringono perfino a prendere lezioni di pianoforte, ma lui sembra avere in mente soltanto lo sport, il baseball e il basket, per la precisione. Finché un giorno succede qualcosa che cambierà per sempre il corso della sua storia. Quando avevo 9-10 anni, i miei genitori mi hanno fatto prendere lezioni di pianoforte. Le ho odiate per i primi 4 anni, fino a quando ho imparato come si dovesse fare. Poi è venuto il divertimento. Ed era pressappoco lo stesso periodo in cui ho ascoltato per la prima volta della black music. Ero in un campo giochi a giocare a baseball. Qualcuno aveva una radio sintonizzata su una stazione di black music. Da quel momento ne fui rapito. Mentre i suoi genitori, con l'intuito di chi sembra aver capito delle potenzialità ancora inespresse, cercano di far studiare pianoforte a Ray Manzarek con i migliori maestri, per esempio Bruno Michelotti, lui pensa soltanto allo sport. A basket insiste a voler fare il playmaker, ma il suo coach non ne vuole sapere. E così, quando ha 16 anni, riceve un ultimatum: o accetta di fare la guardia pura o deve lasciare la squadra. Lui, testardo al limite dell'arroganza, fa la borsa, saluta i compagni, lascia lo spogliatoio e se ne va. Dirà in seguito che è stato il primo segno che il destino gli ha dato per indirizzarlo sulla strada dei Doors. Se non fosse stato per quell'ultimatum, non sarei mai entrato a far parte dei Doors. Era un chiaro segnale del destino, qualsiasi cosa questo volesse dire. Poi, poco alla volta, Ray Manzarek subisce il fascino della musica jazz e suonare il piano non gli pesa più di tanto. Anzi, comincia ad esercitarsi a tutte le ore per affinare la tecnica e diventa davvero bravo. È ormai un ragazzo, con gli amici frequenta i locali della città dove si fa musica dal vivo e comincia a farsi strada nella sua mente l'idea che quello possa essere il suo futuro. Va alla ricerca dei vecchi dischi nei mercatini che affollano Chicago, così ricca di tradizione musicale, ed è una grande soddisfazione quando riesce a scoprire qualche nuovo pezzo. Ero solito ascoltare Al Benson e Big Bill Hill. Erano dei disc jockeys di Chicago. Da allora tutta la musica che ascoltavo veniva dalla radio. Il mio modo di suonare il piano cambiò. Venni influenzato dal jazz. Imparai a suonare lo stride piano con la mano sinistra e compresi che mi attraeva il materiale con del ritmo. Jazz, blues, rock. Al liceo Santa Rita di Chicago, Ray comincia a suonare davanti a piccole platee con i suoi fratelli Rick e Jim. Partecipano a molte gare di provincia, a quei concorsi che mettono in palio pochi soldi per premiare nuovi talenti. Nelle sale dai colori spenti, con giudici raramente professionisti del settore e un pubblico di curiosi attirato da una serata diversa dalla monotonia della quotidianità, si esibiscono come fossero in uno stadio gremito di persone. La grinta dà i primi frutti, un po' di denaro in tasca per comprare strumenti e materiale, molte piccole soddisfazioni che generano grandi sogni. Ray ormai si sente così a suo agio nella parte del rocker che porta avanti la musica e i concerti anche durante l'università. Facoltà Economia, a cui segue l'iscrizione a una specializzazione in legge all'Università della California. Non ci mette molto a scoprire che non fa per lui. Si annoia a imparare articoli a memoria. Vuole realizzarsi in modo creativo, dare sfogo alla sua voglia di ascoltare e raccontare storie. E un giorno l'epifania. È seduto sul prato davanti a uno dei campus, gambe incrociate, un libro aperto. Qualcuno passa di fianco a lui e distrattamente lascia cadere un foglio con l'orario delle lezioni. Fa la facoltà di cinema, la stessa che sta frequentando anche Jim Morrison. Per Ray è un altro segno che, come dirà in seguito, lo sta portando sulla strada dei Doors. Sono cresciuto a Chicago e quando ero 21enne l'ho lasciata per Los Angeles. È stato qui che, giorno dopo giorno, mi sono appassionato al cinema. Ho capito che il cinema poteva combinare i miei interessi per la drammaturgia, le arti visive, la musica, la realizzazione economica. Prima di lasciare Chicago ero appassionato al teatro, più come performance che come disciplina. Alla facoltà di cinema della UCLA, Università della California, il tormentato poeta Jim Morrison incontra per la prima volta l'indeciso ma talentuoso musicista Ray Manzarek. Seguono molti corsi insieme e mentre Coppola e Scorsese stanno attenti a non perdersi un minuto, loro preferiscono dedicarsi ad altro. Quattro chiacchiere su di loro e sulla vita e i due capiscono che nonostante le differenze c'è un'affinità palpabile. Jim ha cominciato a portare solo magliette bianche e jeans stretti. È timido e riservato, ma il suo passaggio non lascia mai indifferenti. Lascia sempre una traccia indelebile. La sua cerchia di amici comprende alcuni tra gli elementi più radicali dell'università, che è sì liberale, ma non fino al punto da accettare il loro stile di vita selvaggio. Insieme Ray e Jim discutono di Nietzsche e del cinema italiano. Attore preferito Vittorio Gassman. Film preferito Il sorpasso di Dino Risi. Su, vola! Ale! Torniamo a Viareggio? Non lo so, non facciamo programma, vedremo. Bravo, come piace a me, senza programma. Ale! Dai, corri, dai! Urrà! Urrà! Bravo avvocato, adesso vai bene. Vedi che ti sei sbloccato. Oh, ma chi c'è davanti a noi? Superare! Come regista, Jim Morrison non si rivela granché. Gira due cortometraggi, ma nessuno dei due piace all'interno della scuola. Lui non se ne preoccupa, non è questo il suo interesse principale, anzi si butta ancora di più nella letteratura e nella musica, che interpreta come un'occasione per fare poesia. E mentre il suo dolore non passa e cresce in lui la difficoltà ad affrontare l'esistenza, il destino sta per fare il suo corso. Siamo nel 1965 e i Doors di Jim Morrison e Ray Manzarek presto diventeranno la rock band più famosa del mondo, facendo di Jim un'icona immortale. La sensazione che ho è quella di una profonda malinconia. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1965 e all'Università della California, facoltà di cinema, si sono appena incontrati quelli che presto diventeranno i fondatori dei mitici Doors, Jim Morrison e Ray Manzarek. Lettore avido e onnivoro il primo, bello e tormentato, musicista di talento e curioso il secondo, iniziano a parlare e scoprono di avere molto in comune. Un giorno, passeggiando sulla spiaggia di Venice Beach, luogo preferito delle peregrinazioni notturne di Morrison, scatta la scintilla da cui comincia la leggenda. Manzarek, che ha sentito Morrison cantare alcune delle sue canzoni, tra cui Moonlight Drive, gli propone di formare un gruppo. È una delle scene più intense del film diretto da Oliver Stone nel 1991, The Doors. L'estasi è follia. Mettiamo su un compressore. Facciamo un milione di dollari. Le cose stanno per esplodere, Jim. Lo si sente nell'aria. Il mondo vuole combattere o scopare, amare o uccidere. Il Vietnam sta là, dietro l'angolo. Bisogna scegliere da che parte stare. Brucerà tutto, amico. Questo pianeta chiede un anno cambiamento, Morrison. Noi dobbiamo creare i miti. Dovrebbero esserci delle grandi orge, proprio come quando Dioniso è arrivato in Grecia. Per lui le donne sono impazzite, hanno lasciato le case e ballando sono salite sulle montagne. Dovrebbero esserci delle divine dorate copulazioni nelle strade di Los Angeles. Potremmo chiamarci Dioniso. No, io un nome ce l'ho, i Doors. Vuoi dire le porte della mente, il libro di Huxley? Le porte della percezione, l'acido. Magnifico. Quando le porte della percezione saranno purificate, all'uomo tutto apparirà come realmente è, infinito. È William Blake. Da un verso di William Blake, ripreso a sua volta dallo scrittore Aldous Huxley nel suo saggio The Doors of Perception sugli effetti della mescalina, nascono i Doors. Il frontman è il carismatico Jim Morrison. Alla tastiera e ai bassi c'è lo psichedelico Ray Manzarek. Poi arrivano il chitarrista Robbie Krieger e il batterista John Densmore. La visione poetica di Jim è molto lucida. Ci sono cose che si conoscono e altre che non si conoscono. Esiste il noto e l'ignoto. E in mezzo ci sono le porte. I Doors sono i sacerdoti del regno dell'ignoto, che interagisce con la realtà fisica, perché l'uomo non è soltanto spirito, ma anche sensualità. La sensualità e il male sono immagini molto attraenti, ma dobbiamo pensare ad esse come alla pelle di un serpente, di cui ci si libererà. Nell'ottobre del 1965, Bill James della Columbia Records offre alla band un contratto a termine con royalties molto basse e poi non glielo rinnova. Segue un periodo in giro per i locali di Los Angeles, come il Sunset Strip, dove una sera Jim incontra Pamela Corson, la compagna che lo troverà morto nella vasca da bagno quel terribile 3 luglio del 1971. Le esibizioni si fanno sempre più provocatorie, lo stile è visionario. Al Whiskey a Go-Go compaiono in scaletta molti brani che saranno nei primi due album, finché la versione edipica di The End scandalizza il proprietario del locale che li licenzia. La casa discografica Elektra decide di rischiare, proponendo ai Doors un contratto esclusivo per 7 album. Loro accettano. The Doors, il primo album, è una bomba. Uno dei dischi più venduti dell'anno, insieme a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Manzarek dà un'impronta unica al sound, un blues rock psichedelico contaminato da jazz. Morrison sul palco diventa uno sciamano indemoniato e disperato, che vive il concerto come una mistica seduta spiritica in grado di proiettare tutti oltre le porte della percezione. La canzone Light My Fire raggiunge il primo posto della classifica di Billboard e sancisce l'ingresso dei Doors nell'Olimpo del rock. I successi e le esibizioni sempre più scandalose e spesso censurate seguono vorticosamente. Al celebre Ed Sullivan Show viene chiesto a Jim di cambiare una parola di un testo. Lui dice sì, e poi, rabbioso contro un sistema che rifiuta con tutto se stesso, la pronuncia in diretta. Al Portland Memorial Coliseum, Jim incita la folla a scatenarsi e il concerto viene interrotto. Nell'arena di New Haven, Jim provoca i poliziotti e viene arrestato sul palco. Urla e provocazioni estreme alimentano il tutto esaurito ovunque, in un periodo in cui la rivoluzione è alle porte. Sono sempre stato attirato dalle idee di ribellione contro l'autorità. Quando ti riconcili con l'autorità, diventi tu stesso autorità. Nel 68, in piena contestazione, la fama dei Doors è all'apice e Morrison continua ad eccitare le folle di tutto il mondo. Declama poesie, diventa un'icona, ma intanto fa sempre più uso di alcol e droghe, il che rende molto difficoltoso anche da parte di Manzarek gestirlo. Processi per atti osceni, svenimenti sul palco, condotta molesta. Più cresce il successo, più Jim si autodistrugge. Il re Lucertola, come lo chiamano i fan, prendendo spunto da un suo verso, decide di smettere con la musica, solo poesia, per ritrovare se stesso e ricominciare a vivere. Siamo nel 1971 e Pamela Corson lo aspetta a Parigi. Chissà che cosa sarebbe successo se Pamela quella tragica notte del 3 luglio fosse stata con Jim nella loro casa al numero 17 di Rue des Beautreilles. Forse non sarebbe cambiato nulla, forse l'avrebbe visto morire. Mille ipotesi sono state fatte, mille suggestioni, come succede con i miti, vengono date come ipotesi reali. Teorie di complotto, la possibilità che Jim non sia mai morto davvero, interviste che negano o confermano le più disparate interpretazioni. Quello che sappiamo è che Ray Manzarek è ancora sul palco, a portare avanti una musica in cui ha sempre creduto. Quello che sappiamo è che grazie a una proposta che Ray Manzarek ha fatto a Jim Morrison è diventato immortale. Credo che i Doors siano un gruppo rappresentativo dell'America. L'America è un miscuglio con un unico sapore definito. E così noi. Le nostre influenze derivano da una miriade di diverse fonti che noi abbiamo amalgamato, mischiando stili divergenti nelle nostre cose. Siamo proprio come il paese. A uno straniero l'America deve sembrare un comico guazzabuglio, come per i Doors. Noi proveniamo da aree differenti, da diverse tendenze musicali. Siamo diventati un'unità con un duro lavoro, un sacco di sforzi. Tutte le cose che la gente dice dell'America si possono dire dei Doors.